parte, l'ultima parte di Rock Legends. Continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Saint Leaves dal titolo Charm. Come si chiamava questa canzone? Summer Rain. Tra l'altro in questa canzone ci sono delle collaborazioni. I coretti che sentite sono di Manuel Agnelli, Giorgio Prette. After Hours. Sì, una parte. E poi Roberto Angelini, Nicole Martinez e Cesare Basile. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Beh, innanzitutto abbiamo questo secondo video di Little Sister girato da Filippo Barbieri, che insomma speriamo che girerà anche su Rock TV eccetera. Quindi intanto la promozione è iniziata, adesso la promozione appunto del secondo video, e vedremo i risultati a breve. Ovviamente il nostro progetto è quello di suonare più possibile in giro, non soltanto in Italia. Visto che l'album adesso uscirà negli Stati Uniti, distribuito dalla No More Fake Labels di Chapel Hill come etichetta, e l'ufficio stampa sarà il Clermont Team, che è l'ufficio stampa dei Rem e degli Arctic Monkeys, che ci promuoverà in 200 radio per qualche mese negli Stati Uniti. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Allora, Wake Up. Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Un grazie a Saint Lips per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Grazie a tutti innanzitutto, grazie a te anche. E, allora, noi aggiorniamo sempre il nostro sito MySpace, www.myspace.com/saintlips, e anche la nostra pagina Facebook. Quindi aggiorniamo sempre tutto. Il prossimo live è il 6 maggio a Mantova e per il resto poi ci potete seguire online. Le altre date insomma sono da confermare. Il 7 dovrebbe essere. Comunque aggiorniamo tutto il nostro calendario, esatto, sì, attraverso i nostri siti e potete controllare e essere in contatto con noi perché li curiamo direttamente. Esatto. Disco? L'album è nei negozi, distribuito da Audio Globe, quindi se non lo trovate basta richiederlo, comunque la distribuzione è nazionale e lo potete trovare comunque online su tutti i maggiori portali come iTunes e i più grandi, e distribuito da Self. Brano per chiudere in bellezza questa serata? Yourself, che tra l'altro è anche il nostro brano di chiusura dei concerti, che è un po' liberatorio. Gianluca e Saint Lips vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti qui in stanza, formazione veronese che ci presenterà il disco Meravigliosamente Male. Ciao! Ciao!